Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Iniziamo insieme una nuova giornata e il primo ospite con cui beviamo il nostro primo caffè è Luca Mazzucchelli, psicologo e psicoterapeuta. Buongiorno dottore, benvenuto. Un caro saluto Nicoletta e bentrovati. Dottor Mazzucchelli, lei oggi ci deve dare una mano perché la situazione che stiamo vivendo, questa emergenza, se così possiamo chiamare, del coronavirus, questa situazione pesante che sta invadendo la nostra quotidianità, ha sicuramente anche dei risvolti emotivi e noi vorremmo proprio con il suo aiuto ragionare su questi aspetti, perché l'epidemia di coronavirus è anche un'epidemia emotiva. Tutti noi abbiamo dovuto fare i conti con una quotidianità che è cambiata in modo particolare nelle zone rosse, nelle zone gialle, ma in qualche modo ha contagiato anche le persone che vivono al di fuori di queste zone. Dottor Mazzucchelli, ogni situazione si vive sulla propria pelle, ma si vive con il cuore e con la mente. E i due si parlano in continuazione, così. E da qui nascono le paure, nascono anche quei tentativi di minimizzare la situazione. Da che cosa cominciamo, dottore? Ma allora, sicuramente iniziamo dalle idee, direi, dalle parole, dalle informazioni che mettiamo nella nostra testa. In base a ciò che noi conosciamo, quelle che sono le nostre conoscenze, allora poi da lì decidiamo come comportarci e anche questo impatta su quelle che sono le nostre emozioni, le nostre paure, talvolta anche le nostre paure più nascoste, più ancestrali. Sicuramente siamo all'interno di un contesto dove c'è una sovraesposizione incredibile al tema del coronavirus e a quelli che possono essere gli esiti peggiori legati a questa cosa. Di conseguenza le nostre paure, le nostre emozioni ci attivano per cercare di preservarci. Non sempre diciamo però che questa buona intenzione, quella di salvaguardare la nostra incolumità, poi riesce a tradursi in comportamenti anche utili e anzi molto più spesso devo dire, insomma, i fatti di cronaca purtroppo sono noti a tutti, queste paure diventano esagerate, eccessive, finiscono per paralizzarci o per farci fare anche delle azioni stupide, tra virgolette. Dottor Mazzucchelli, il problema è che noi spesso siamo in qualche modo colpiti da queste nostre emozioni. Ci dimentichiamo di considerare che è tutto fisiologico, è naturale. È naturale avere paura, è naturale preoccuparsi, è naturale cercare di informazioni. Dottor Mazzucchelli, anche da questa situazione noi possiamo farla diventare da limite a risorsa? Sicuramente sì, io credo di sì, è tutto naturale purché non diventi patologico, diciamo, purché non diventi eccessivo. Se la paura mi fa ad esempio prendere a pugni dei cinesi per strada, allora lì andiamo incontro a una problematica chiara. Allora noi, la paura è una parte di noi, dobbiamo sicuramente imparare ad ascoltarla, tanto più noi cerchiamo di combatterla tanto più questa diventa anche esagerata. Certo. Allora, sicuramente una delle prime cose che possiamo fare è anche quella di accettare sicuramente i nostri limiti, le nostre fragilità, però se la paura ci impedisce di vivere, allora diventa una gabbia all'interno della quale e iniziamo anche a mettere in campo degli atteggiamenti non troppo sensati. Certo. Non è facile dire quando la paura è sensata e quando la paura invece è esagerata, anche perché non c'è, io credo, un modo unico e giusto di reagire alla paura del coronavirus, come in questo caso. Certo, una domanda utile potrebbe essere quella di chiederci se abbiamo paura di qualche cosa che è possibile o di qualche cosa che è probabile, perché possibile e probabile sono due mondi diversi. Gli assicuratori lo sanno bene, gli assicuratori solitamente assicurano ciò che è probabile, non ciò che è possibile. Cioè, possibile è fondamentalmente quasi qualsiasi cosa, come il fatto che io stamattina uscendo di casa magari venga travolto da un tigre. È possibile? Sì. È probabile? No, se uno sta attento. Probabile invece è un'altra cosa, no? Quindi è probabile magari che se vado a Wuhan in questo momento senza mascherina magari mi becco un contatto. Allora, noi abbiamo paura di qualche cosa che è possibile o probabile, dipende dall'attenzione che noi poniamo nel qui e ora ai nostri atteggiamenti di prevenzione, dalla fascia d'età chiaramente nella quale stiamo, dalla presenza di altre patologie. Allora, ognuno deve sapere se la paura che sta vivendo in questo momento rispetto al coronavirus è un qualche cosa di possibile o probabile e di conseguenza comportarsi in modo diverso. Dottor Mazzucchelli, riflettevo sul fatto che il coronavirus, come abbiamo detto, ha cambiato un po' la nostra quotidianità, e questo a fronte delle misure restrittive che sono state messe in campo per limitare il contagio. Proviamo a riflettere, abbiamo svuotato un po' la nostra quotidianità di appuntamenti, di occasioni che ritenevamo probabili. Nel weekend, ad esempio, prima di iniziare un weekend, molti di noi, sino a 10 giorni fa, facevano delle ipotesi, dei programmi: posso andare al cinema, vado a teatro, vedrò gli amici. Adesso... Certo. Ci siamo tolti, no, queste possibilità, non le abbiamo e rimaniamo noi a casa con i nostri familiari, con i nostri libri, la TV. Ecco, anche su questo aspetto, secondo me, possiamo ragionare, un attimo fermarci a riflettere. Sicuramente. Per valutare quanto il peso delle cose che noi possiamo fare per riempire la nostra vita è importante per noi. Sono molto d'accordo, nel senso che questa è vita, proprio questa è vita, e anzi il ritiro sociale, quindi il ritiro dalla socialità, dalla vita, per molti aspetti è anche visto come l'anticamera della depressione in certi casi. Quindi dobbiamo imparare a bilanciare, secondo me, quello che è tra virgolette un istinto di morte, no? Io penso a tutte le notizie catastrofiche che sono al di fuori di noi, intorno a noi in questi momenti, che ci rimandano quindi a un tema di morte, di catastrofe. Noi dobbiamo imparare a controbilanciarlo con quello che è l'istinto di vita. Che cosa vuol dire? Cercare intorno a noi, dentro di noi, per quello che c'è possibile, invece di inserire nuovamente questi elementi che ci rimandano alla vitalità, quindi le relazioni, gli hobby, le passioni, chiaramente facendo attenzione, non sto dicendo di adottare dei comportamenti spropositati. Chiaramente. Però ad esempio se non baciamo il nostro amico che incontriamo per strada o che ci viene a trovare, possiamo sorridergli con gli occhi, che esatto. E secondo me questo arriva molto di più tante volte di un bacio sulla guancia frettoloso, quasi per, no, perché si fa così, o una stretta di mano che diamo senza guardare l'amico o il conoscente negli occhi. Quindi giusto, utilizziamo tutti quei segnali che il nostro corpo è in grado di dare, relazione non viene assolutamente minacciata, anzi forse possiamo riscoprire un nuovo modo di farci sentire vicini senza stare troppo vicini. Ma sicuramente, più in generale, direi di utilizzare bene questo tempo, no? Che magari non possiamo più utilizzare e spendere al lavoro o in altri contesti. Usiamo noi il tempo invece che farci utilizzare dal tempo. Certo, vedere gli amici, ma anche soltanto leggere, formarci, investire sulla nostra crescita, risolvere e andare a riprendere in mano tutte quelle cose che procrastinavamo e che non abbiamo fatto. Da questo punto di vista sì, può essere anche una risorsa. Io mi rendo conto in queste due ultimi giorni, insomma, ho avuto tante disdette lavorative, è tempo che sono riuscito a dedicare ad altre cose importanti, alla famiglia. Ecco, a proposito di cose importanti, dottor Mazzucchelli, io vorrei raccontare l'iniziativa che avete messo in campo per le persone che sono confinate nelle zone rosse, sì, e che probabilmente hanno bisogno di uno scambio, di avere un supporto qualificato, e che grazie a voi appunto possono avere un colloquio psicologico in videochiamata. Ci racconta per bene tutto, è ben descritto nel portale della vostra startup, ma ci inviti lei. Sì, certo. Dunque, andando sul sito www.mindwork.it è possibile registrarsi, selezionare uno psicologo. Al momento del pagamento, inserendo il codice MINDFREE, avere la possibilità di un primo colloquio psicologico gratuito con un professionista esperto in materia. Perché questa cosa è importante secondo noi? È vero che c'è modo e modo di vivere il confinamento nella zona rossa, alcune persone sono tranquille, altre di meno, non c'è giusto o sbagliato, ripeto, però noi ci teniamo a offrire un momento di confronto con un esperto per far emergere quelli che sono dei vissuti anche emotivi che talvolta si tende o a negare a se stessi oppure a dar loro un'attenzione esagerata. Allora, parlarne con un professionista può aiutare a relativizzare le cose, a comprendere meglio i significati delle nostre emozioni, il senso di paura, di impotenza, di rabbia che molto spesso accompagna queste persone in questi momenti. Dottor Mazzucchelli, in questi giorni si è molto parlato del fatto che stiamo vivendo la prima epidemia 2.0 e si è attribuito ai social un po' la colpa, no, di aver portato a scene di panico, allarmismi esagerati. Questa è una dimostrazione di come i social invece possono essere utilizzati bene, di quanto la tecnologia può esserci anche d'aiuto. Questo mi piace sottolinearlo, se lei è d'accordo, dottor Mazzucchelli, che dice? Il nostro lavoro è una missione sociale, si tratta di prendersi anche una responsabilità, no, civile da questo punto di vista, e aiutare in questi momenti delicati chi da solo fatica. Ecco. Dottor Mazzucchelli, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi e a presto. E noi ci sentiamo come sempre a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e subito dopo per la nostra diretta Facebook. Buonissima giornata da Nicoletta.